grande sei. Appena vedo amici, li fare tu e papà su. Papà bevo uomini, mi viene in la vicino. Mi dimmi tu la bella fonte, ma non è tu sua bo. Non mi dai la specie a voce. Yeah.